Buongiorno, sono quello che diceva da Ciuchina e che voleva mandare via Sarri. Ora, purché tutto torna normale, alla normalità del calcio, mi va bene anche Sarri, va bene tutto. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Hai visto il casino che è successo oggi con il libro di Giorgio Chiellini? No, che è successo? Bobo, t'ho detto alle 3:20, alle 8:20 stavo sui monti. No, ha detto Mario è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo, non ci diede una mano in niente, roba da prendere a schiaffi. Felipe? Il peggio del peggio. Il peggio del peggio. Una mela marcia. Grande Giorgione, grande! Quindi è uscito questo libro. Ah, cavolo, lo vado a comprare sicuro, anzi me lo faccio mandare. Melo, Bobo, non lo conosco. Mario è un bambino, è un bravo ragazzo, un bravo Cristo, poi non so a cosa si riferiva. Però la cosa che io ti posso dire, ho un enorme rispetto di Giorgio, è un ragazzo super intelligente, capisce di calcio, ma Bobo ti dico, in campo a Giorgio è da ammazzare quando ci giocavi contro, che ti menava. Sì, sì. Fuori dal campo, uno dei ragazzi più intelligenti che io abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, un ragazzo favoloso. Se ha detto queste cose qua, lui ci avrà i suoi motivi. Non intromettiamoci in mezzo a sto casino, sennò andiamo. No, ma Giorgio è una persona seria, un grande personaggio. A parte quando uno fa un libro. Devi dire la verità, la sua verità. Cosa devi dire? No? E oggi loro hanno risposto a lui, però insomma, vediamo nei prossimi giorni cosa succede. Maurizio Crosetti, buon pomeriggio. Eccoci, buongiorno cari. Ciao, ricordati di mandare il libro a Cassano e a Vieri. Grandissimi personaggi, con loro sì che sarebbe bello, è già stato fatto, peraltro Pier l'ha fatto con Cassano, però ecco, hai nominato due con cui sarebbe sicuramente bello chiacchierare a lungo e farsi raccontare tutto quasi. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Molto bene, molto bene. Senti, che è caduto, questo cascherà domani, perché esce domani questo Io Giorgio, no, in cui Chiellini si racconta attraverso la penna magica del cross. Questo libro cade nel vuoto e nel silenzio dello stagno del calcio che è fermo e non poteva fare più rumore, no? Lecito attenderselo, Pierluigi. Beh sì, Chiello è un personaggio straordinario, ma veramente straordinario, nel senso è un calciatore... Secondo me è uno di quei calciatori completamente diverso dallo stereotipo che generalmente si racconta e che in qualche modo è anche legato al suo modo di stare in campo. Insomma, diciamo, non è il poeta del gol, per citare un'espressione, non è dal punto di vista tecnico il giocatore più talentuoso e più dotato, è uno che ha costruito grazie alla sua, secondo me, intelligenza, al suo impegno e al suo fisico una carriera di altissimo livello. Fuori dal campo io ho avuto modo di incontrarlo spesso, di intervistarlo spesso, di farci anche un evento che ricordo in maniera particolare perché era un evento aziendale ma era legato ad alcuni elementi proprio di motivazione aziendale e ho avuto la sensazione, toglici dall'aziendale, parliamo solo di motivazione, sennò sembra una roba commerciale, invece in realtà si parlava proprio di stare insieme, di essere squadra, dei valori che ti portano a trovare una quadra all'interno di un gruppo e io ho sempre ricavato la sensazione di un calciatore tutt'altro che banale, poi insomma nel decidere di scrivere certe cose c'è anche una componente diciamo di scelta. Beh Piero, ma tu l'hai fatto con Cassano, insomma, Cassano ha ragione Maurizio quando dice che se decidi di fare un libro, di raccontarti in un libro qualcosa devi pulire. Ma io sono d'accordissimo, ti dico che io preferisco una autobiografia di un personaggio un pochino meno importante ma che dice cose piuttosto che un'autobiografia di un grandissimo personaggio che fa 0-0, perché credo che il valore proprio editoriale sia quello delle cose che uno dice. Qui c'è una congiunzione fra i due elementi, quindi ci sono tutti i presupposti perché la cosa possa andare bene. Però insomma io lascerei la parola a Cross, che sicuramente ci può raccontare qualche retroscena in più, no? Qualche backstage, tu dici? Qualche backstage. No, a parte il fatto che poi, ricordiamo, questo libro esce domani e il ricavato non va nelle tasche di Chiellini, credo neanche di Crosetti, ma questo non lo so, non mi interessa. Però il ricavato va in Superabili on Loose, quindi va a questa fondazione che ha Chiellini, che fa del gran bene per ragazzi che ne hanno bisogno. Ma al di là di questo, che poi non è neanche un tanto un al di là, io chiedo agli ascoltatori cosa ne pensano di queste anticipazioni che sono uscite. 349-238-6666 per i WhatsApp vocali. Però Maurizio, già tutti ne hanno parlato, da Capello che dice ma parlano troppo, dovrebbero certe cose meglio lasciarle confinate dentro là e non fare troppo casino. Tardelli che se l'è presa con Chiellini, in questo caso io non condivido, quando dice sportivamente odio l'Inter, odio è una parola forte, però come giustamente dice Chiellini, Michael Jordan sportivamente dice odio i Pistons, odiavi i Pistons ma li odio ancora sportivamente parlando, vabbè, se vogliamo fare, se vuoi che imbranchiati facciamolo pure. Sì, io credo che aggrapparsi a una frase per spiegare l'universo sia sempre sbagliato. E il contesto di quell'odio sportivo Giorgio l'ha chiarito, in ogni caso va letto nel libro e il libro va letto dentro il personaggio, che è molto più di una frase, è molto più di uno scappellotto a Balotelli o a Felipe Melo, ma è per l'appunto, come diceva Pierluigi, un uomo, un calciatore diverso, un uomo completo, un ragazzo che si è fatto davvero da sé, è arrivato alla laurea, è arrivato a essere capitano della Juventus e della Nazionale, anima di un'associazione, di una squadra di calcio per ragazzi disabili, appunto Insuperabili, il libro va totalmente a loro, e la prima volta che io sappia questo succede al 100%, sono ragazzi che grazie al pallone superano i loro handicap, hanno addirittura aperto un negozio in cui loro a Torino servono e vendono i loro prodotti, adesso vabbè, ovviamente è chiuso con tutti gli altri negozi e c'è un tutor diciamo che li aiuta, ma per il resto questi sono ragazzi che non solo giocano ma lavorano. Chiellini è anche questo, Chiellini è veramente un ragazzo d'oro che in campo si trasfigura e fa il mestiere suo, lo fa a gomiti alti, in maniera alle volte grezza, alle volte molto dura, ma lui è il primo a saperlo questo, ma quello non è quello lì è Chiellini. Nel libro c'è molto più Giorgio, c'è anche Chiellini, ma c'è Chiellini che parla di Giorgio. Io poi sembra una marchetta perché l'ho scritto io insieme a Giorgio, ma il primo lettore di Giorgio il primo lettore di Giorgio, in senso lato, sono davvero stato io, che lo conoscevo naturalmente, ma non così a fondo, ho passato con lui molte, molte ore, molte serate, e devo dire davvero che al di là di quello che poi siamo riusciti a tirar fuori, io credo una buona cosa. Per me è stata un'esperienza umana importante. Vi garantisco che Giorgio Chiellini è tutto diverso da come sempre. Senti, ma tra le varie cose che sono state dette appunto dai personaggi succitati, da Capello a Tardelli a Moratti eccetera, c'è qualcosa che non condividi o non ti è piaciuto? No, in generale non mi piace quando si giudica una cosa guardandone solo un pezzetto, no? Se ho guardato il dito mignolo della Pietà di Michelangelo non mi piace. Guarda tutto, no? Cioè, Chiellini, ripeto, non si è nascosto, non ha fatto Democristiano, anche se questa cosa che una volta sembrava un insulto con quello che è capitato a questo povero nostro paese, a questa povera nostra politica, diventa, lasciatemi dire, un rimpianto gigantesco. Ridateci Fanfani e Andreotti, scusate, chiudo la parentesi, visto quello che c'è poi toccato e ci tocca ancora in sorte. Però diciamo, quando il Democristiano voleva dire frenato, voleva dire sempre attento al compromesso, no? E questo quindi era un atteggiamento, ripeto, fondamentalmente negativo. Ecco, molti giocatori, molti sportivi fanno i democristiani nelle interviste e vabbè, quello è più comprensibile perché durano poco, ma anche nei libri. Allora a quel punto cosa lo scrivi a fare? Ha ragione Pierluigi, per fare 0-0 stai a casa anche se sei un grandissimo. Sì, sicuro. Perché Agassi è diventato Agassi quel libro lì? Perché lui ha detto io odio il tennis, sì, mio padre mi ha obbligato, cioè io messo lì, ma io odio il tennis, ecco. Esatto. Quindi voglio dire, Per fare i pretini o i santini, che va sempre tutto bene, non cominciamo nemmeno. No, ma io, assolutamente. Io Pierluigi, sì, lapsus freudiano clamoroso. ma scriverò anche quando scriverò la biografia di Pardo. Allora potrò io e Giorgio ci siamo detti subito: se dobbiamo raccontare solo un pezzo di realtà o della tua vita, o se tu vuoi dire che sei un grande, lasciamo perdere, perché nessuno lo è davvero. No, ma quello che stupisce, no, Pierluigi, questi libri di solito si fanno a carriera chiusa. Non ricordo a che punto fossero la carriera Cassano e tu, ad esempio, quando ho scritto con te. Però normalmente si fanno a carriera chiusa, a giochi fatti, a bocce ferme. Sì, si fanno quando ci sono un po' di cose da raccontare ed è possibile fare un bilancio. Insomma, l'autobiografia di un calciatore molto giovane, poi insomma Cassano secondo me è veramente stata un'eccezione, perché quando abbiamo fatto il libro, che era il 2008, lui aveva 26 anni. Però non mi ricordo se l'abbiamo fatto nel 2008, forse mi sto sbagliando. Sì, ma io credo nel 2008-2009. Però aveva già una quantità tale di episodi da raccontare, sì, che già bastavano. E in realtà, sì, l'autobiografia di un 23enne medio che si comporta bene in un club, eccetera, eccetera, non ha molto senso. No, io volevo dire una cosa sulla frase dell'odio sportivo. Volevo chiedertelo, appunto. No, secondo me vedi, questo è proprio, ma non riguarda, è soltanto uno dei 100 esempi. Noi dovremmo abituarci a valutare, ma questo secondo me è anche colpa un po' di noi giornalisti, del sensazionalismo, della necessità di andare a beccare i click. Noi dovremmo valutare le cose nel loro complesso, dovremmo essere un po' meno pigri. Ma questo non vale solo per questo esempio, per mille cose. Cioè, che poi molto spesso si tratta semplicemente di leggere la frase, magari quella dopo, cioè di perdere 30 secondi di contestualizzare le cose. Io adesso non l'ho letto, non vedo l'ora di leggerlo, ma immagino che sia quello che dice pure Materazzi della Juve del Milan. Cioè, Credo che uno mediamente dotato di buon senso possa, che sia interista juventino per Materazzi o per Chiellini, si offenda per una roba del genere, no? Sì, poi si può discutere sul verbo utilizzato, insomma, però voglio dire, alla fine la sostanza è quella. È chiaro che è un odio sportivo e penso che sia assolutamente reciproco, certo. Finché rimane e deve rimanere nel confine della lealtà e della civiltà e della non violenza, è assolutamente il sale della vita di un calciatore, di un tifoso, di un dirigente. Insomma, è il famoso concetto legato ai derby. Due squadre si possono anche sportivamente odiare, ma in fondo sanno che hanno una bisogno dell'altra, perché è nella contrapposizione, quindi nel rispetto dell'avversario, che nasce la bellezza del calcio e la bellezza quando lo batti e il dolore cosmico quando invece perdi. Chiaro, quindi cioè, alla fine è la cosa più semplice del mondo, però è chiaro che poi invece noi leggiamo, no, il click, odio l'Inter, odio la Juve, odio il Milan, allora lì inevitabilmente si arriva subito a fare a arrivare a conclusioni secondo me esagerate. Sì, ma ti ripeto, il concetto secondo me è più complessivo e vale per mille questioni e per mille dichiarazioni, è quella di non andare a trovare, ma questo vale anche per le gaffe in certe circostanze, no? Nel non andare lì con la matita rossa o blu a prendere la frasetta fuori posto. Bravo. Ma capire il senso di un ragionamento, ecco. Bravo. Io non so, ma fatto credo così. Che per tutte le persone, ripeto, mediamente dotate di intelletto, non con la coda troppo di paglia e che non, insomma, che ragionano in una maniera corretta, credo che non ci si possa offendere per una roba del genere. Ripeto, l'ha fatto Chiellini, l'esempio di Jordan, quando dice: ma tu odiavi Pison? Sì, li odio ancora adesso, figurati dopo che ha smesso di giocare. Quindi è questo il concetto ed è molto sportivo, con tutte le sottolineature del caso. Quindi questo è il senso. Invece su Balotelli, altro discorso che ha fatto parecchio discutere, beh, in questo momento è un po' la Croce Rossa, Balo Cross. Sì, sì, per carità, è persino troppo facile e non bisogna mai voler stravincere, però anche qui veramente inviterei, tanto vabbè, probabilmente a leggere il libro è uno scopo nobile, è anche un'offerta per qualcuno che ne ha bisogno, ma al di là di questo si capirà leggendo il libro che Chiellini parla di Balotelli e di Felipe Melo, anche questo è un lapsus bellissimo, però Felipe Melo non ha fatto altro che menare per tutta la vita, però siamo meravigliosi, le parole sono meravigliose anche quando escono senza che lo vogliamo, perché non escono mai davvero senza che lo vogliamo, caro dottor Freud. E quindi Balotelli e Felipe Melo sono stati tirati in causa per fatti, per partite, per episodi, per comportamenti, non in astratto, mi antipatico e parlo male di lui. Poi, sì, per carità, uno può farlo in un libro, in televisione, vis-à-vis, ma estrapoliamo dal concetto. Ma soprattutto, come diceva Pierre, non facciamo sempre quelli che vogliono giudicare tutto, cerchiamo, sostituiamo giudicare a capire, proviamo un po' a capire le ragioni delle persone, le cose che dicono, guardiamo in maniera un po' più ampia, allarghiamo l'orizzonte, allarghiamo l'inquadratura, usiamo un grand'angolo, cioè la realtà è un'inquadratura grande, non è un dettaglio, anche se è fatta di dettagli. Cioè, l'odio sportivo di Chiellini certamente è spiegato e motivato, ma poi è anche spiegato che una delle prime persone che gli mandarono un messaggio la sera dell'infortunio al ginocchio fu Zanetti, Xavier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. In questo contesto, col grandangolo, è tutto bellissimo. Cioè, a me piace anche qui, a me piace quell'odio sportivo, mi piace questa rivalità, se vogliamo usare una parola. Se no ipocrisia, cioè ci sono rivali che sono più rivali di altri, poi possiamo decidere che non si può usare, sarebbe meglio non usare la parola odio, usare qualcos'altro, sono questioni anche di vocabolario, ma la sostanza ci dice che nella storia dello sport ci sono rivali più rivali di altri, c'è Moser e Saronni, secondo voi, e Coppi e Bartali, che erano pure amicissimi dal punto di vista umano. Non erano anche acerrimi nemici che sapevano e potevano anche odiarsi in un certo momento, ma addirittura l'atleta, chi fa sport lo sa, l'atleta odia suo padre che l'ha obbligato a farlo, odia l'avversario, odia se stesso, odia la salita che non finisce mai. Pantani andava in fuga perché voleva alleviare, lo disse a Gianni Mura, l'agonia della salita. Secondo voi non odiava il Tourmalet Pantani quando scattava? Certo che sì. Bisogna capirle queste cose, però ci vuole il grand'angolo, come dici tu, e a parole è bellissimo e facile, nei fatti magari meno. Roberto, buongiorno. Roberto? Roberto da Milano? Non mi risponde Roberto, ma adesso lo richiamiamo. Non ho letto invece ancora il libro, ovviamente come nessuno, dato che esce domani, anche se ho visto degli estratti. C'è un capitolo su Conte? C'è un capitolo sugli allenatori per lui importanti e indubbiamente Conte è adorato da Giorgio Chiellini, altro che odio sportivo. E stiamo parlando, guarda un po', dell'allenatore dell'Inter, e andatevi a leggere cosa dice Giorgio Di Antoni e perché Conte è così. Lo sappiamo perché Conte è così, ma andatelo a sentire da un suo giocatore in bianconero e in azzurro e capirete perché Conte è così, perché Allegri è così. Perché anche Sarri è così, non si nasconde mica. Chiellini parla anche di Sarri e parla in modo sincero, dice. Qualche volta sembra un leone in gabbia perché lo vediamo che vorrebbe applicare continuamente le sue teorie, un uomo che vive di schemi, di idee, di teorie, ma poi qualche volta la realtà è fatta anche di adattamenti. Lui lo ha capito in questi mesi alla Juve, che non è tutto soltanto lavagna e schema. E allora lì cosa facciamo? Che Chiellini ce l'ha con Sarri? Manco per niente, prova a spiegarlo, prova a raccontarlo. Andatevi a leggere Chiellini e Ibra. Ma non si odiavano in area, ma accidenti che sì, però è l'avversario che lui stima di più, non vede l'ora di riaverlo, speriamo che il destino, il futuro diano la possibilità. La cronaca dice che torna oggi, poi qualcuno ci dirà se ricominciano a giocare di questo. Questo è un gran misto di, come diceva l'amico Paolo Sollier, calci, sputi e colpi di testa, e anche usiamolo un po' la testa, non solo per colpire il pallone. Ecco, Giorgio Chiellini, posso dirlo, lo conosco bene, la testa la usa proprio, mica solo per spazzare l'area. E quando la usa, infatti, in campo, di solito piglia di quelle testate craniate, si è rotto, mi ha raccontato che ha forse addirittura qualcosa come quasi 100 punti, non tutti insieme, di ricuciture della testa, il naso se l'è rotto 4 volte, cioè è uno che la testa la usa pure troppo quando va incontro al pallone. Infatti, guarda caso, ma davvero la usa tanto anche quando non colpisce il pallone. E devo dire, non sono né il suo addetto stampa, lavora alla Juventus, però sono suo amico, lo dico. Tutti noi, ma guarda caso, usando la testa, è anche uno che ha il dono dell'ironia, cosa non per tutti. E tra l'altro, ve lo anticipo, Pier, nei prossimi giorni, credo dopodomani, avremo Del Piero, nostro ospite, e chiederemo anche a lui un parere, quindi, certo. Quindi preparati. Un altro coautore mica male del vecchio Cross, Cross sta alle autobiografie come Mino Raiola sta alle procure, cambiano un po' gli stipendi. Anche come Iban, uguale. Gli Iban cambiano un po', però vuoi mettere, insomma... Roberto, buongiorno, adesso ci siamo, credo, mi dicono. Sentito, mi scusi. Carlo Genta, lei e a Luigi Padre, suo ospite. Sì, io sono d'accordo su quello che stava dicendo il suo ospite, su Chiellini, ha tutte le sue ragioni, perché Balotelli, insomma, non è che è venuto nella sua carriera non ha approfittato, è stato sempre, non ha la testa a posto, insomma, quindi di conseguenza non è finito bene, non è nazionale, non è visto bene, insomma. Come posso spiegare? Sono d'accordo su quello che dice sul libro Chiellini. Purtroppo non è una persona, non è stato visto un milanista, anche nel Milan purtroppo non ha dato quello che doveva dare, insomma. Beh sì, però ne abbiamo parlato prima, Pierluigi Pardo è amico di un chiaro esempio di quelli che non hanno dato quello che potevano dare, al di là di tutto, cioè Antonio Cassano è fin troppo facile ed è stato fatto mille volte, forse abusato il parallelo tra Balotelli e Cassano, se intende che sul campo non ha espresso quello che poteva esprimere, altrimenti sarebbe stato uno dei primi 5 attaccanti del mondo per diversi anni, siamo tutti d'accordo, questo è quello che intende dire. Sì, ma poi voglio dire, la bellezza della dichiarazione forte è che la verità non è che la sappiamo, ed è ovviamente, la verità non esiste, ci sono i punti di vista, però ecco, in assoluto, in generale, io preferisco, è chiaro che nelle interviste più difficili, nelle autobiografie, a bilancio di una carriera è più facile, preferisco la sincerità piuttosto che lo 0-0, per cui poi insomma non è adesso compito di tutti i convocati stabilire chi ha ragione tra Chiellini e Balotelli, credo che sia però neanche interessante neanche di Crosetti, ognuno certo, al suo punto di vista, certo, però quando un calciatore dice una cosa molto precisa, molto circostanziata e ci mette la faccia, insomma, credo che sia decisamente interessante. Intanto inganniamo l'attesa con questo libro da domani, mentre siamo qui ad aspettare il tram dei protocolli, Maurizio. Vediamo passare quello degli spettacoli teatrali all'aperto, ma per quello dei protocolli bisogna aspettare ancora, bisogna attendere ancora la fermata. Aspettiamo ancora un po', cercando di far convivere, l'abbiamo detto fino alla noia, la salute e il lavoro, ma senza pregiudizi, senza prendersela sempre con quelli che provano a vivere, no? No, è meglio non andare in navigli in quella maniera, certo, ma non giocare a pallone rischiando quello che si rischierebbe probabilmente andando a fare la spesa al supermercato ben bardati con la mascherina, i guanti, non lo so. Poi io ci ho cambiato, mi sono riunito con me stesso molte volte in questi 2 mesi per capire per cosa ne pensassi, e all'inizio avevo effettivamente posizioni un po' più rigide, adesso ho deciso che forse almeno un tentativo. Ma Maurizio, è cambiato tutto quello che c'è intorno a noi, cioè un mese fa, esatto, il 10 di aprile. È cambiata molto la realtà, non tanto in Piemonte e Lombardia, io parlo da Torino e va bene, però sta cambiando un pochino tutto, quindi forse è anche giusto che lo sport e il calcio abbiano la possibilità. Questo in qualche modo era prevedibile, così come è prevedibile che ci auguriamo di no, che possa ricambiare in negativo, perché poi sappiamo certo, Cina adesso c'è un ritorno di contagi, quindi però che questa pandemia terribile abbia come caratteristica la sua velocità e un'evoluzione continua della situazione che può andare in un senso o nell'altro è evidente. Per questo secondo me è un dovere, non solo un diritto, è un dovere del calcio e dei suoi dirigenti cercare di identificare una mappa, un percorso. Poi io, sapete come la penso, a costo di sembrare ancora una volta democristiano, io penso che alla fine si debba decidere guardando come primo elemento la salute, perché per me quello non è discutibile, però non fare niente e arrendersi, magari in qualche caso anche perché si ha un vantaggio, si può avere un vantaggio dal punto di vista della classifica, o si spera di poter comunque recuperare qualche introito, insomma, per convenienza, ecco, questo non mi piace. Le società di calcio nascono per giocare a pallone ed è anche evidente secondo me che poi, se non dovesse esserci la possibilità di giocare, se dovessero esserci questi 700 milioni persi dal mondo del calcio, il mondo del calcio, che è un mondo di privilegiati, ma alla fine è un'industria come tutte le altre, potrebbe a quel punto pure andare dallo Stato, come gli altri settori della vita del paese, a dire che ha avuto un danno. E soprattutto ce ne faremo tutti una ragione. Poi ne parliamo affrontando anche il discorso in Spagna e in Inghilterra dopo la borsa. Faremo questo perché cambiano anche le prospettive. Un mese fa, l'11 di aprile, eravamo in mezzo al mare, oggi siamo da un'altra parte del mare, vediamo in lontananza le coste, quindi è normale come il nostro stato d'animo, come diceva Maurizio, ci porti a cambiare idea in continuazione, non c'è niente di male. Abbiamo Luigi e Matteo, sono due ascoltatori che volevano parlare di Chiellini, quindi li faccio parlare uno dopo l'altro, rispondere Maurizio Crosetti e poi lo salutiamo. Luigi, buongiorno. Buongiorno, senta, io vorrei sapere una cosa, vorrei sapere se nel libro c'è scritto per quale squadra tifa Chiellini. lo dice da Pisano e quindi la domanda è fortemente sospetta. Adesso le faccio rispondere da Crosetti, ma prima Matteo. Sì, salve, ma io per quanto riguarda Chiellini credo che la differenza di spessore, di carriera, di uomini, di valori tra i due sia talmente impari che Chiellini si poteva permettere di dire quello che voleva, che tanto avrebbe avuto sempre ragione, e lo dico da juventino difendendo, ecco, il capitano ma anche l'uomo. Poi che Ballotelli, ragazzi, sia stato una mela marcia o abbia avuto atteggiamenti non consoni, penso che non ci voleva il libro di Chiellini per capirlo, ecco. Quindi... Allora, Matteo, aspetti, allora, abbiamo capito anche Gabriele e poi risposta cumulativa del cross. Gabriele? Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Io volevo semplicemente dire che quando ho sentito quella frase del numero 3 della Juventus, non mi è sembrato niente di scandaloso, che è normale. È ovvio che da giocatore di quella squadra lì, odiassero interisti. Sì, e infatti quello che abbiamo sempre sportivamente è inteso con il senso che deve essere dato a questo discorso. Maurizio, prego, non so se vuoi partire dalla squadra per cui tifa Chiellini, richiesta di un Pisano. Sì, da bambino era milanista e poi vabbè, poi Pisa e Livorno, poi lui è un livornese nato a Pisa, quindi vive anche, cioè sembra una pagina del Vernacoliere con un refuso, no? Dici no, ma questa cosa è possibile? Negli album delle figurine all'inizio, il primo album suo, cioè lui c'era scritto insomma, che era di Livorno, mentre lui è nato a Pisa per ragioni. Il papà faceva il medico lì, aveva una zia levatrice che anche lavorava lì, insomma, quindi per un livornese nascere a Pisa è dura. Insomma, a proposito di odio sportivo, vedi, è nato al centro di un campanile, di un campanilismo, e sì, quindi certo. Per forza, no, che poi doveva essere il suo destino. Mi è piaciuta la difesa, cioè come se Chiellini avesse bisogno di essere difeso, anche questa è una contraddizione in termini, però... L'ultimo ascoltatore che ha parlato di Milano, che ha parlato del numero 3 della Juventus, no? Quindi chiaramente non è di quella parte lì, e dice che non ci trova niente di particolare, perché è una cosa facilmente comprensibile per chi ha la testa giusta per comprenderlo. Quindi gli interisti sono i primi a capirlo, e poi ripeto, c'è davvero molto, molto di più. Per esempio, ecco, c'è un capitolo, e poi vi saluto, in cui Giorgio racconta la giornata della partita. Minuto per minuto, gesto per gesto, piccoli riti, pensieri. Ecco, io che non ho mai, purtroppo per me, giocato al calcio ad alti livelli, e so bene che anche le telecamere negli spogliatoi sono una mezza finta, sempre qualcosa di più di prima, insomma, mi fanno vedere ovviamente un po' la messa in scena, però mai nessuno mi aveva raccontato proprio quasi minuto, tutto il calcio minuto per minuto, ma è tutto il giorno della partita minuto per minuto. Lì devo dire anch'io ho fatto delle scoperte particolari, perché loro, i calciatori intendo, sono un po' degli alieni, no? E lo sanno, sono dei marziani, ed è difficile capire su quale pianeta davvero loro si muovano. Per qualche volta, voyeur, queste cose sono quelle. Qualche volta alcuni tra di questi, questo marziano, no? C'è un marziano a Roma, quello di Flaiano, lui è un marziano a Torino, ogni tanto un marziano ci fa salire sull'astronave e ci porta a vedere un po' come è fatto il suo pianeta. Ed è quello che un appassionato di calcio come tutti noi alla fine desidera, essere accompagnato lì dentro a capire cosa c'è, ecco, un bambino che va in un negozio di giocattoli, è stato anche un po' questo. Grazie Maurizio! Grazie a voi, ciao. Abbraccio. Allora ci fermiamo al volo per la borsa e poi torniamo andando in Spagna e in Inghilterra. Chiellini, finalmente uno sincero. Sono milanista, ma cacchio, è da apprezzarlo. Finalmente che uno dice quello che pensa. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. My life didn't change too much, but of course I miss the boys, I miss football, how it is. Pues los que nos tenemos para terminar, sí, todos los días, sí. Todos los días fútbol durante 35 días. El riesgo de un partido va a ser cero. o praticamente zero. Klopp, Tebas, Inghilterra, Spagna, molto interessante. Dicevamo prima per Luigi quanto detto da Crosetti sul fatto che ha cambiato idea molte volte, tutti noi abbiamo cambiato idea molte volte in questo periodo, ma perché lo scenario che ci ruota intorno, che vediamo dal finestrino di questo dannato treno, è diverso, così come lo è in Inghilterra, così come lo è in Spagna. Perciò ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ciao, ciao. E abbiamo anche Stefano Boldrini, Gazzetta dello Sport, sempre Inghilterra. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao. Hola. Hola. Hola e hello. Allora, hello. Hi everybody. Good day. Senti, Ma è uscita così. Vai. Partirei dall'Inghilterra perché dunque l'11 aprile, dicevo, guardando un mese indietro eravamo in mezzo al mare e non vedevamo la riva. Oggi giriamo in bicicletta, sebbene distanziati magari con la mascherina, con un po' di prospettiva tra un mese potremmo essere al campetto. Credo che l'Inghilterra sia ancora quella più distante dalla vista delle scogliere, no Stefano, in questo momento come feeling? Ma diciamo che nelle ultime ore ci sono state una serie di turbolenze all'interno dell'esecutivo di Boris Johnson, che come avete visto ha fatto un messaggio alla nazione registrato, quindi non c'è stato un contraddittorio con i media. Ora le ultime filtrano attraverso il Daily Telegraph, il giornale per il quale Boris Johnson, prima di avventurarsi in politica, collaborava. E appunto il Daily Telegraph anticipa che in realtà oggi Boris Johnson potrebbe dare il semaforo verde alla ripresa di una serie di attività sportive, il che potrebbe consentire alla Premier di mantenere quel programma, cioè di ripartire il 12 giugno. È in corso anche oggi una riunione della Premier, che però è ovviamente collegata a quanto dirà oggi Boris Johnson in Parlamento. Ripeto, ci sono state una serie di turbolenze perché sapete, la Gran Bretagna l'aveva presa molto male questa storia, cioè l'aveva presa con la cosiddetta immunità di gregge, poi hanno capito che diventava una catastrofe e ieri sera Boris Johnson ha detto abbiamo evitato la catastrofe, alla quale tra l'altro lui stava trascinando il paese, per cui la situazione non è molto fluida, lo scenario politico è simile molto a quello italiano, cioè ci sono falchi, colombe, mediatori, però ecco, oggi forse sicuramente ne sapremo qualcosa di più. La voglia di far ripartire la Premier, soprattutto da parte delle big, è fuori discussione. Le piccole si accontenterebbero anche diciamo di un campionato sospeso, perché questo permetterebbe l'anno prossimo di restare in Premier, sì, sì, e di non affrontare la lotta per la salvezza che ancora avete impegnate le squadre. Beh, come dici tu, falchi e colombe. In Spagna invece la situazione è un po' più simile alla nostra, non solo per ragioni calcistiche, anche in Spagna, Filippo, si vede in lontananza la costa e quindi ci sono discorsi un po' più avanzati, facciamo così, che vengono portati avanti. Sì, per me qua la grande differenza, una cosa che manca all'Italia e all'Inghilterra, è il presidente Tebas, che dal primo minuto spinge come un pazzo per il ritorno in campo, ed essendo un tipo molto dinamico non perde occasione di cercare di portare acqua al suo mulino. Questo per me è mancano due dirigenti, no, negli altri paesi, che così determinati. Lui ieri si è apparecchiato questa grandissima trasmissione televisiva, no, è stato bruciato il venerdì dall'allenatore del Leganés, no, da Aguirre, che praticamente lo doveva dire lui che voleva far ripartire la Liga, e l'ha detto l'allenatore messicano, e ha detto che aveva fissato come data il 20 giugno. Adesso l'hanno bruciato dicendo che addirittura praticamente il 12 giugno si giocherà Siviglia-Betis, e poi si va avanti col calcio tutti i santi giorni per 35 giorni. E, ovviamente... Che dovrebbe essere il paradiso, che... una condizione normale sarebbe il paradiso, no? Una condizione, esatto, normale, esatto. Diciamo, che siamo, avessimo... siamo a porte chiuse, siamo, no? Senza, esatto, pubblico, certo. Adesso hanno anche annunciato novità nella ritrasmissione, diciamo nella trasmissione delle partite a livello audio e video, vediamo di cosa si tratta. Però ovviamente il tutto dipende dalla situazione del paese. Noi qui adesso siamo in una, diciamo, è cominciata questa desescalata, questa apertura che va per province, vediamo come va, perché adesso c'è un sacco di gente anche a Madrid, che è il posto peggiore insomma per contagi insieme a Barcellona. Adesso c'è molta più gente per strada e i risultati si vedranno tra una settimana, 10 giorni, certo, sì, magari sì, ci risentiamo la settimana prossima e qui è successo un disastro e bisogna tornare a fare il lockdown, come speriamo qua. Tutti di no, come accade qua, come accade qua, sì, Filippo, è la stessa cosa, no? Il prossimo fine settimana proveremo a capire qualcosa in più, non a caso poi dovrebbero cominciare gli allenamenti collettivi eccetera eccetera. Una cosa che, Pierluigi, io non riesco a capire, poi vediamo il punto di vista all'estero, però è questa chiusura che c'è nei confronti dei, ok, va, se va tutto bene, incrociamo le dita, preghiamo chi vogliamo, si ricomincia eccetera, non riesco a capire, non so tu, questa chiusura nei confronti delle sedi in cui giocare, il campo neutro da un'altra parte, qual è la, cioè, tu te ne fai una ragione? Anche Cellino ha detto sì, va bene, ok, sono d'accordo, adesso mi sono convinto, ripartiamo, però voglio giocare a Brescia, campo chiuso, però voglio giocare a Brescia. Ma ci sono aspetti di natura economica, ci sono aspetti di natura sanitaria, perché comunque andare a giocare, per esempio, ti faccio l'esempio di Brescia, che sappiamo è stata sicuramente una zona rossa e molto colpita, al di là del fatto che poi queste zone potrebbero anche cambiare a distanza di settimane, ma insomma, partendo dal presupposto che ci sia comunque una situazione peggiore a Brescia che, non lo so, nel sud Italia, e beh, da un lato sicuramente sarebbe auspicabile andare giù, dall'altro però è anche vero che se tu sei a Brescia riesci forse a controllare meglio, hai il tuo centro sportivo, hai la tua sanificazione, i giocatori dopo la partita tornano a casa, e di là invece magari con le partite ogni 3 giorni significa che devi avere gli spostamenti, gli alberghi, delle situazioni più difficili dal punto di vista logistico. Insomma, io qui vorrei leggerci invece un sano pragmatismo. Io lo dicevo anche 20 minuti fa, credo che nella vicenda alcuni presidenti, alcuni dirigenti abbiano provato a capire che cosa gli convenisse da una parte e dall'altra, lo dico sinceramente, insomma, cioè sono stati tutti forse anche legittimamente attenti ai propri interessi, a capire che strada prendeva il discorso dei diritti televisivi, il pagamento di quest'ultima rata, i rapporti con i calciatori, le eventuali penali dei contratti con gli sponsor, le conseguenze di politica sportiva, le retrocessioni, eccetera eccetera. Adesso mi pare che si siano tutti abbastanza allineati sul tentativo, ma se io sono un ottimista, sul fatto di poterci provare, dove poi ribadisco, provarci non vuol dire riuscirci, perché no, chiaro, nessuno chiaro. Si deve far male, assolutamente, però insomma mi pare che anche il ministro, ultimamente il governo abbia avuto una posizione molto più aperta, anche perché se no, ribadisco, il calcio italiano, esattamente come tutti gli altri settori, potrebbe andare a chiedere soldi al fisco, e attenzione, quando dico soldi, non sono i soldi per lo stipendio dei calciatori top, che certamente non ne hanno bisogno, ma sono comunque i soldi che servono per i bilanci delle società, per poter evitare di portare i libri in tribunale, perché in qualche caso siamo veramente in quella situazione lì. Le società di calcio sono società che hanno un meccanismo strano, per cui la testa, cioè le 20-30 persone che hanno gli stipendi più alti, che sono i calciatori, pesano in certi casi il 70-80% dei costi complessivi dell'intera azienda. È chiaro che se non giocano e non arriva per esempio un introito come quello di un diritto televisivo, si rischia, non è che rischia Cristiano Ronaldo di essere improvvisamente indigente, ma rischia il sistema calcio e rischiano i bilanci delle società. No, ma è interessante, sarà interessante subito dopo il traffico capire, declinare questa prospettiva anche sull'Inghilterra e sulla Spagna, lo facciamo tra un attimo. Ciao a tutti ragazzi, dobbiamo prendere esempio dalla Germania. Esempio! Ginta, stai pure in vacanza. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Ecco, Stefano Boldrini, la Premier potrebbe andare a bussare cassa al governo inglese nel caso in cui non dovesse riprendere a giocare. Io comunque in prospettiva, non lo so, sarà una lente deformante di questo periodo, però vedo un'Inghilterra in futuro un po' più allineata come capacità di spesa, valori di mercato, eccetera, eccetera, a tutti gli altri. Beh, sapete, si parla della peggior recessione degli ultimi 300 anni in Gran Bretagna, e quindi è logico che ci sarà un ridimensionamento del mercato, che però resterà sempre, ridimensionandosi anche in altri paesi, resterà sempre a un livello leggermente superiore a quello appunto di altre nazioni. Ma io credo che comunque, ascoltavo con molta attenzione le parole di Pierluigi, e io credo che lui abbia centrato poi un aspetto, cioè che riguarda quindi l'Inghilterra, riguarda la Spagna, riguarda l'Italia, cioè si fa molta demagogia quando si parla del calcio. In realtà il calcio è un'industria e va affrontata con senso di responsabilità. Quello che devo dire qualche volta, vedendo anche da alcune dichiarazioni italiane, secondo me è completamente mancato, perché poi se stanno tre mesi senza giocare e hanno delle decurtazioni salariali i calciatori, però immagino che Cristiano Ronaldo, Zaniolo, insomma, sopravviveranno senza problemi. Il vero problema, cioè, tutto il cosiddetto indotto, cioè tutti quei lavoratori, quelli che lavorano negli uffici, cioè quelli che fanno i lavori da 1.500-2.000 euro al mese, che all'improvviso si sono ritrovati, ad esempio in Inghilterra, in cassa integrazione. Poi la differenza tra l'Inghilterra, anzi la Gran Bretagna, e l'Italia è che lì la cassa integrazione è scattata, è stata erogata, mentre qui in Italia ci sono ancora alcune categorie che non hanno visto un euro. Però ripeto, l'approccio deve essere sicuramente quello di un'industria, e va ovviamente trovato un punto di equilibrio con il discorso della sicurezza e della prevenzione. Ma vedere il calcio solamente come un divertimento un esercizio di ricchi miliardari è una posizione demagogica. Quante volte l'abbiamo detto, mio caro? È demagogia allo stato puro. Vi faccio un esempio e poi vi lascio a voi la parola. Un club come il Tottenham, che avete visto adesso è stato inaugurato un nuovo stadio, cioè lo stadio più bello dell'Inghilterra, ogni partita in casa il Tottenham produce un fatturato di 5 milioni di euro tra la biglietteria, il merchandising e tutto quello che c'è, diciamo, intorno, di commerciale. Puoi capire che ad esempio il Tottenham saltare le 5 partite, cioè fare le 5 partite che dovrà affrontare in casa a porte chiuse, significherà perdere 25 milioni di euro, così pronti via. Quindi ripeto, bisogna fare attenzione quando si parla del calcio a uscire fuori dai soliti schemi, perché è un'industria nella quale ci sono i ricchi, ma ci sono tanti onesti lavoratori che in questo momento in Italia, in Spagna, in Inghilterra sono in difficoltà, e sono migliaia e migliaia di persone. Assolutamente, a me è piaciuto molto, Filippo, nelle parole di Tebas, tra le pieghe del discorso di Tebas, anche questo richiamo comunque alla condotta di responsabilità da parte dei giocatori. Dice: la condotta deve essere esemplare per la società, vedo molta responsabilità nei giocatori, se tutti rispettiamo le normative sanitarie penso che non avremo problemi a far riprendere a terminare la Liga. E questo è sacrosanto, sì, secondo me, no? Di ogni protocollo. Comunque sono parte attiva del processo. Per esempio oggi c'è stato subito un primo piccolo, come dire, contrattempo, perché Arthur è stato notato è arrivato all'allenamento del Barcellona con una macchina diversa rispetto a quella che ha usato sabato. E invece i giocatori devono usare sempre la stessa macchina, devono andare da soli, così è stato subito notato. Dopodiché è venuto fuori che gli si è scaricata la batteria dell'altra macchina, insomma, sembra un po' così, però vabbè. Ha bucato. Però è stato bucato. Esatto, capito? Ha bucato, così, c'aveva le mani sporche di grasso. Però, insomma, è stato notato immediatamente. È un giocatore, ovviamente, sì, giocatore importante, Barcellona, però la gente vuol dire, cioè, tutto, c'è grande attenzione. Rispetto al discorso che facevate prima, è cavallo di battaglia di Tebas, l'1.87% del PIL nazionale è prodotto dal calcio, lui lo ripete ogni volta, ed è così, insomma, è un indotto enorme e come tale va trattato, no? È una grande battaglia culturale, e il fatto che siamo tutti d'accordo, insomma, Filippo e Bold sono due dei grandi cantori del calcio africano, per esempio, insomma, hanno una visione che poi è un po' la stessa mia, insomma, molto romantica, molto letteraria del calcio, hanno raccontato anche spesso delle le miserie che ci sono dietro l'eccesso di commercializzazione del fenomeno calcio, perché c'è pure tutta quella roba lì, le esagerazioni, certe provvigioni, certe cose che assolutamente aggiungono solo plastica, però poi la componente del calcio, al netto di tutto questo, è sana. La funzione sul tessuto economico di un paese è importante, è una delle poche aziende, dei pochi settori industriali che anche nei periodi di crisi ha tenuto negli ultimi anni, non è andata in particolare recessione, magari non è cresciuta come in altri momenti, ma non è andata in particolare recessione, e quindi insomma merita rispetto, è il punto di partenza che abbiamo sempre detto. Poi è ovvio che una partita di calcio senza, io capisco i tifosi e capisco pure gli ultra in un certo senso, perché comunque è chiaro che la partita di calcio senza il pubblico fa schifo, cioè, o comunque è molto meno bella, ma questo è indiscutibile, però se giocare per 3 mesi o per 6 mesi senza pubblico è in qualche modo l'unica arma che abbiamo per salvare il salvabile e magari fra un anno avere un campionato dove torniamo ad avere gli 80.000 e i tifosi sulle tribune, alla dove fine c'è da è un firmare, firmiamo subito. Hai letto cosa ha detto Capello? Il calcio è quello che diceva Piquet ieri sera, ma la voce dei giocatori, Filippo, perché in Inghilterra, tra poco lo chiedo a Stefano Boldrini, ci sono molti dissenzienti. Io credo che in questo momento sarà anche particolarmente importante avere una voce che sia abbastanza unanime, uniforme dei protagonisti. Qui c'è uniformità di pensiero, solo a un certo punto è uscita la posizione dei giocatori dell'Eibar che erano spaventati, però insomma poi anche lì Tebas li ha messi in riga rapidamente, perché veramente non ne perde una, è subito intervenuto. Ieri sera per esempio appunto Piquet e Ramos, perché è stata una trasmissione molto importante, insomma c'era Koke, un sacco di giocatori importanti, e Piquet ha detto sì, come dire, mi fa schifo giocare a porte chiuse, però meglio giocare che non giocare. Per dire, anche Ramos ha parlato, il Madrid probabilmente andrà a giocare a Valdebebas, perché tanto essendo a porte chiuse, certo, così ne approfitta per accelerare i lavori al Bernabeu. Chiaro. Esatto, lui dice no, preferisco giocare al Bernabeu, però se serve si va a Valdebebas, non c'è problema. Cioè ci vuole un po' di, in questo momento ci vuole anche grande pragmatismo, e qui i calciatori mi sembra stiano mostrando questa cosa qua. Anzi, questa cosa che hai detto di Valdebebas mi fa anche pensare che potrebbe essere un'opportunità anche da noi, assolutamente, cioè approfittare del trasformare in un certo senso un problema grosso come questo quasi in un'opportunità per poter sistemare delle cose, perché no? Gioca dov'è più comodo, tanto lo vedi che tu giochi a Valdebebas, a Milanello, ad Appiano Gentile o al centro allenamento del Tottenham, è perfettamente identico. In Inghilterra invece mi sembra che i giocatori, cioè almeno c'è qualche voce anche importante contraria, che non prende l'idea di una ripresa con grande entusiasmo, no Stefano? Beh, il primo a esprimersi è stato Agüero del Manchester City, quindi un peso super massimo. Dietro di lui poi piano piano si sono accodati, ora ci sarebbero una cinquantina di giocatori che temono la ripartenza della Premier, però c'è anche una ragione comprensibile. La Gran Bretagna è diventata il secondo paese al mondo per numero di contagi e ancora è cominciata la fase discendente della pandemia, ma ancora siamo in piena fase 1, quindi da un punto di vista di un calciatore è legittima la preoccupazione. Poi a proposito di parchi di auto, qui una delle misure che vogliono adottare è quella di stabilire delle regole all'interno dei centri tecnici per i parcheggi, cioè ogni calciatore avrà il suo parcheggio con il nome Agüero, Pardo, Ricci, e tutti però devono essere, questi parcheggi saranno distanziati di 3 metri, in modo da consentire, diciamo, che quando i giocatori arrivano, insomma, di evitare al massimo i contatti. Detto questo, vivendo in Inghilterra, in particolare a Londra, mi viene da sorridere, perché la situazione è ancora ad alto rischio, cioè la gente va in giro senza le mascherine, l'aeroporto di Heathrow nessuno ha la mascherina, cioè siamo ancora lontani da certi criteri di sicurezza, per cui in base a questo credo che sia legittimo il timore espresso dai calciatori. Chiudo dicendo una cosa, secondo me è sacrosanto il concetto che bisognerebbe comunque rivedere alcune cose di questa industria, questa è una grande occasione. Io ho un cavallo di battaglia, quello delle commissioni, quando vedo nei bilanci di alcune società che le commissioni sono in doppia cifra, ma non in doppia cifra 10, ma in doppia cifra 20, 30, commissioni per mediatori, sì, che per me sono veramente soldi buttati, soldi che escono dal sistema, io lo trovo indegno e indecoroso. Per cui spero che almeno qui qualcosa cambi. Ci troveremo tutti a fare i conti. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Per Luigi Pardo che ritrovo domani, Stefano Boldrini, a Filippo Maria Ricci che ritroveremo quanto prima, a Filippo Aureggi in regia, Claudia Schiattone naturalmente, oltre a Lorenzo Nespoli in redazione. Ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montana russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.